Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. I migliori risvegli del 2018. Vai così che vai bene, smetti di giudicarti e di dirti che non vai bene, impara a farlo, perché se elimini l'insicurezza ti realizzi nella vita. Oggi ho copiato alla grande, buongiorno al professor Morelli che inizia con me la mattina, benvenuto. Grazie. Ho scopiazzato e commentato la copertina di Rizza Psicosomatica, che manda un messaggio forte e chiaro e mi piace darlo subito al mattino. L'autocritica fa ammalare il cervello. Smettiamo di criticarci, di dirci che non andiamo bene, e se iniziamo a farlo al mattino presto, forse la giornata già oggi migliorerà. Professore. Ma il numero di Rizza che è in edicola questo mese è dedicato a questo tema forte: smetti di dirti che non vai bene, perché analizzando il pensiero di tante persone, se tu fai chiudere gli occhi a una persona e gli dici mi dica una cosa nella sua vita che non va bene, la trova in un secondo. Mi dica qualcosa che non va bene dentro di lei, la trova in un altro secondo. Noi abbiamo un atteggiamento verso certe nostre emozioni, certi nostri sentimenti, sempre di autocritica, sempre di critica, no? Dottore, mi diceva una mia paziente, l'altra sera sono uscito con lui, mi sono detta adesso stai tranquilla, vedrai che va tutto bene. A un certo punto lui ha ordinato un piatto e gli ho detto hai ordinato lo stesso piatto che sicuramente ordinavi quando uscivi con lei. È successo l'inferno. E fino a qui ci sta. Ci sta di litigare. La vita, una coppia che non litiga è una coppia che si lascia. Sì, punto. Anche una coppia che non si bacia. Anche, beh, matematico. Quante ne sai, Nicoletta? Sono nell'età d'oro. Esattamente. Ma la cosa importante non è quello che succede, è dopo. Dopo incomincia a dirti, vedi, sei sempre la solita, e non dovevi farlo, e non dovevi dirgli, no? E incomincia la punizione verso di sé, verso dei lati spontanei, istintivi, come la rabbia nel caso che dicevo prima. Allora cosa dobbiamo imparare a fare? A dire, ok, quello che è successo, no? Perché questa spontaneità, questa aggressività che è emersa, fa parte di me. Il rispetto delle cose che non mi piacciono di me è fondamentale per star bene. Anzi, ti dirò di più. Se proprio vuoi sposarti con te stessa, sposa ciò che non ti piace di te. Sposa la tua rabbia. Sposa il fatto che ti senti troppo timida o timido. Sposa il fatto che dentro di te in alcuni momenti c'è la testardaggine. E Rilke, il grande poeta, che era un grande conoscitore della psiche, sai cosa diceva? Francamente le cose che non mi piacciono di me sono tante, ma un giorno ho imparato che in quei draghi aggressivi, in quei demoni che non mi piacevano, c'erano tante principesse che volevano venire alla luce. Allora ho incominciato a amare i miei demoni. Ama la tua tristezza, ama le tue paure, ama la tua insicurezza, ama la tua rabbia. E soprattutto non stare a pensare a quello che hai fatto. Quello che hai fatto l'hai fatto. Quello che hai fatto l'hai fatto. Non cambierà. Ma quello che puoi fare di importante è star con te, coccolando le cose che non ti piacciono. Questo ti rende grande, altrimenti diventi un bigotto, no? Che sei sempre lì a dirti così non vai bene, così non vai bene, così non vai bene. Certo che l'elenco delle cose che dobbiamo amare di noi è lungo, Ma ognuno di noi, però, per la verità, Nicoletta, ha un demone principale, no? Se non so, Schopenhauer diceva il mio brutto carattere. Ecco, Schopenhauer, per esempio, un grande filosofo, aveva un carattere terribile, per cui era impulsivo, finiva in tribunale, liti pazzesche, no? Poi un giorno ha letto un libro di Chamfort che dice il tuo carattere è tutto ciò che hai, bello brutto che sia il tuo, no? Ed è un pensiero immenso. Allora lui ha detto, io ho incominciato a stare col mio carattere, a coccolarlo e ad amarlo. E con quel carattere un giorno ho preso una penna in mano e ho scritto un libro che resterà nella storia del mondo, e così è stato. con quel brutto carattere. E Nietzsche, che verrà molto tempo dopo, dirà: se non ci fosse stato Schopenhauer, probabilmente la mia filosofia non poteva nascere. Questo per dire che non dobbiamo togliere le nostre caratteristiche. No? Ognuno di noi ha un suo viso, bene, ha un suo carattere. Anche se non ti piace, smettila di criticarlo, smettila di tormentarti, smettila di dirti che non va bene. È il tuo. Allora puoi stare con te stesso e trattare quello che non ti piace come un alleato. E lì diventa una partita importante, perché lì ti accorgi che i disagi se ne vanno. Se vi ho detto che siamo perfetti, siamo noi. Come siamo, esattamente come siamo, andiamo e andiamo bene di volta in volta. Professor Morelli, ne abbiamo parlato in una diretta Facebook, di volta in volta io me lo sono preso, catturato, e sto cercando di organizzare le mie giornate proprio con questo di volta in volta. Prof. Ma un'altra caratteristica della psiche della nostra epoca, una caratteristica veramente pericolosa, è avere una teoria per tutto, no? Una teoria per quando vieni lasciato, una teoria per quando devi stare con qualcuno, una teoria per essere corteggiato per corteggiare, una teoria per i figli. Ebbene, uno dei più grandi saggi che ha avuto il mondo, Chaim de Tolchov, quando l'allievo gli domanda: maestro, ma come ha fatto ad arrivare dove è arrivato lei? E lui risponde: sai, di volta in volta. Cosa vuol dire di volta in volta? Sta dicendoti che sei sempre nuovo. E che tu invece continui a utilizzare gli stessi meccanismi da sempre, no? Di volta in volta adesso sono qui con te e le cose che dico sono quelle di adesso, no? Non posso pensare che con mio figlio il mio modello educativo sarà uguale a 9 anni, a 9 anni 2 mesi, a 9 anni 8 mesi. No, di volta in volta. E di volta in volta sai perché è importante? Perché di volta in volta ci sono io che con le mie emozioni, i miei sentimenti che cambiano. Quindi è importante comprendere che adesso sono qui alle 8 mentre sto bevendo il caffè, e alle 9:30 c'è un'altra che reagirà in modo diverso. Quando tu capisci che ci sono tanti volti dentro di te e che tutti hanno diritto di esistere, allora di volta in volta: Madonna, come ho fatto ad avere una reazione così impulsiva? Mamma, guarda come sono stata passiva. Guarda adesso come sono tenera. Madonna, capisci? Allora di volta in volta non c'è più nessuna teoria. Di volta in volta sono quella che risponde come gli viene. Impariamo a sorprenderci. Bravissimo. C'è un altro... Le donne. Dillo. Sono i signori delle sorprese sono due, i bambini, sì, e le donne. Se tu un bambino lo porti in un negozio, che ha visto un giocattolo che gli piace, no? Se lo fa incartare. E alle donne, qualsiasi regalo tu voglia fare, deve essere ben incartato, ben confezionato, perché devi aprirlo. Perché le donne sono le signore del mistero. La sorpresa, sorprendere le donne, è forse l'atto più erotico che esiste. Prendete nota. Perché una donna sorpresa è una donna che è disposta a vivere la passione in modo molto più ampio. Perché sorprendere cosa vuol dire? Ti sto prendendo in un modo differente da quello che ti aspetti. Nella vita le cose importanti, le migliori, le più potenti avvengono solo quando non te le aspetti, quando non le hai programmate, come i bambini non programmano e sono pronti a tutto. E con questo voglio riallacciarmi ad un articolo che leggo sempre su Rizza Psicosomatica: la vita non vuole regole ma sogni. E questa è una perfetta chiusura, anche perché di primo mattino chissà quanti di noi si chiederanno: ma che ho sognato o non ho sognato? Non mi ricordo il sogno. Perché in realtà il sogno è un ingrediente fondamentale del nostro benessere. Se sogniamo, una ragione ci sarà. Il problema è che non sempre ci ricordiamo quello che sogniamo. Guarda, a me il mio lavoro in tanti anni mi ha insegnato una cosa: che quello che non accade in un mese, in un anno, in 10 anni, può accadere dopo 15 anni. Questo per dire le cose che sa fare il cervello. Il cervello ha pazienza, noi no. Allora, diamogli fiducia. Allora i sogni. Non giudichiamolo, perché è il primo che giudichiamo. Sì, è molto sbagliato dirsi: non mi ricordo i sogni, c'è qualcosa che non va. No, no. No. Io vado a letto e mi dico: signora della notte, mi porti un sogno? Metto lì un bloc notes e aspetto. Passa un mese, 2 mesi, 4, non importa, ma prima o poi un sogno arriva. È importante posizionare lo sguardo su ciò che desidero che accada e poi non pensarci più. Questo è molto importante, perché nel cervello apre delle aree intere, dei circuiti cerebrali che altrimenti non usiamo. Noi pensiamo troppo, ragioniamo troppo, vogliamo sempre spiegazioni, vogliamo sempre la parola perché. No, affidati a qualcosa che vive fuori dal tempo, questo è il sogno. Ogni tanto chiudi gli occhi, quando è un momento, e immagina. Immagina una scena in cui ti piace, immagina un animale per cui hai un'affinità. Non abbiamo idea come gli antichi passassero il tempo a immaginare fiori, animali antichi, primavere, panorami. Gli antichi greci cercavano Afrodite, la dea della bellezza, nei panorami, e si curavano guardando i panorami, cosa che noi non facciamo quasi più. Possiamo farlo oggi. Certo. L'indicazione di oggi, guardiamo, cerchiamo un'immagine dentro o fuori di noi, non giudichiamoci, e di volta in volta continuiamo a sorprenderci e a sorprenderci sempre diversi, perché esatto. siamo in continuo cambiamento. Grazie a Raffaele Morelli per Grazie essere stato con noi. Ricordo, Rizza Psicosomatica, smetti di dirti che non vai bene. Buona giornata da Nicoletta.